pausa è stata un po' più lunga del previsto. Sì, insomma, potevamo dirlo che non volevamo più registrare, no? E invece un attimo al bagno, tornate. E invece no. Siamo tornate qualche mesi dopo. Ci siamo riprese, dai, però ce l'abbiamo fatta. Ci siamo riprese, siamo tornate. Wow. Eccoci qui, wow, sempre sincronizzate al meglio. Sempre, per questa primissima puntata, sia del 2020, ma in realtà dell'intero anno 2020. Accademico. No, ah, no, capito, sì, perché io ancora ragiono a semestri. Ah, certo, come all'università. Eh sì. Bene, finita okay. 6 anni fa. Ma vabbè, siamo sulle frequenze di Radio Città Fujiko. Come sempre, non si cambia squadra. Squadra che vince, giustamente, non si cambia. Secondo me non era così detto. Non era così, infatti sono rimasta un attimo interdetta. Ma vabbè, sì, però te l'ho lasciato dire. Comunque, quali novità vi raccontiamo? Ce ne sono un po'. Aspetta, innanzitutto una grande novità di quest'anno è questa sigla, che non abbiamo scelto noi, o perlomeno abbiamo selezionato qualche traccia, ma la vera sigla l'avete scelta voi sui nostri canali social, che ricordiamo essere già dal principio Futura.1993 su Instagram e su Facebook. Ecco, no, non sapevo che ti coglievo un attimo lì. No, e su Facebook ovviamente Futura1993. Quindi la grande novità in realtà è che vi stiamo parlando da Milano. È vero, oltre alla sigla c'è di più, siamo qua ormai da settembre, quindi diciamo che la nostra pausa è dovuta al fatto che dovevamo ambientarci, sistemare un po' di cose. Sì. Abbiamo sistemato la nostra nuova tana. Ma sì, esatto. Mi guardi con quegli occhioni. Sì, la nostra nuova tana. Siamo molto contente, ma abbiamo già tantissime novità, tipo questa sera ci troverete ad Ostello Bello insieme a Venerus, che farà un meraviglioso live con il sax. È vero, sono molto curiosa di questa versione semiacustica, da come leggo nell'evento, credo di aver capito bene. Purtroppo l'abbiamo perso qua a Milano, ma approfittiamo questa sera per rifarci. È sicuramente uno dei miei artisti preferiti del 2019, quindi vedrete poi sui nostri social insomma come si svolgerà la serata. Assolutamente sì, cercheremo anche di creare qualche contenuto inedito insieme all'artista. Ma a proposito di artisti, non potevamo non iniziare il nuovo anno e questa nuova serie di puntate radio con un ospite d'eccezione, un artista che stiamo seguendo, che stiamo ascoltando, che settimana scorsa è entrato New Music Friday, la playlist insomma tra le più note di Spotify. Prima di averlo con noi ci ascoltiamo il suo ultimo pezzo, Conoscersi in una situazione di difficoltà. Questo è Giovanni Truppi. Conoscersi in una situazione di difficoltà è un'opportunità. A me mi piace la difficoltà perché è una cosa che io divento alleato con te. Distinguersi, avvicinarsi e riconoscersi, dimenticare tutti i fuochi spenti, i mostri, i fallimenti, liberare tutti i prigionieri. Non ti preoccupare, nelle cose scure come nelle cose chiare noi ci andremo insieme, come due cavalieri. Benvenuta tra le mie promesse, quelle che non ci sono più e quelle che sono rimaste. Stare con te mi definisce. Se ti do la mia solitudine, tu mi dai la tua solitudine. Se ti do la mia solitudine, tu mi dai la tua solitudine. Se ti do la mia solitudine, tu mi dai la tua solitudine. Se ti do la mia solitudine, tu mi dai la tua solitudine. Accendermi sacrificando tutti i miei idoli, anticipare tutti i movimenti delle mie paure, tutte le trappole del mio cuore, e mostrarti come ero ieri, come sono oggi, quali sono i miei desideri. le mie promesse, quelle che non ci sono più e quelle che sono rimaste. Stare con te mi definisce. Se ti do la mia solitudine, tu mi dai la tua solitudine. Se ti do la mia solitudine, tu mi dai la tua solitudine. Se ti do la mia solitudine, tu mi dai la tua solitudine. Se ti do la mia solitudine, tu mi dai la tua solitudine. Pronto? Ciao Giovanni. Ciao Giovanni. Ciao. Ciao. Eccoci, siamo Francesca e Giorgia. Ciao, come state? Bene, tu come stai? Tutto bene, grazie. Bene, bene. Allora Giovanni, noi volevamo farti un po' di domande dopo aver ascoltato il tuo ultimo brano con Niccolò Fabi. Innanzitutto sì. Volevamo sapere come mai avete scelto un titolo così complesso, particolare. Definiamolo così. Ci è piaciuto molto. Grazie mille. In realtà è il primo verso della canzone e mi piaceva come suonava e anche il fatto che in realtà appunto è una canzone che parla, poi va a parlare di amore e di innamoramento e mi sembrava intrigante dare questo titolo che in realtà appunto ti fa pensare ad altre cose come suggestione immediata. Mm-hmm, assolutamente sì, sì è vero, infatti era un po' per depistare l'ascoltatore, era quello il senso. Beh, devo dire che ci è piaciuto davvero molto e tra l'altro lo abbiamo visto anche in New Music Friday, nella playlist, insomma, tra le più seguite di Spotify. E quindi ti vede collaborare con Niccolò Fabi. Il singolo precedente invece Mia ti ha visto lavorare insieme a Calcutta. Ci sono altre sorprese che dobbiamo aspettarci da qui all'arrivo di 5, il tuo prossimo EP? Ma in realtà no, le altre canzoni ci sarà una piccola sorpresa, ma le altre canzoni saranno svelate tutte quante con l'uscita dell'EP il 31. Ok, beh, dobbiamo ancora aspettare poco in realtà. Esatto, sì. E invece sappiamo che prestissimo, insomma, partirai anche con i live e dai magazzini, mi sembra, partirà il tuo tour, giusto? Di Milano. In realtà sì, è una prosecuzione del tour, di questo tour invernale. Sì? Abbiamo fatto poi una pausa per queste feste. Mm-hmm. E, pausa panettone. Esatto, e riprendiamo adesso a Milano. Allora, una cosa che ci ha colpito un sacco è anche l'idea di creare un fumetto. Io sono molto incuriosita da questa cosa, ho letto appunto che sono stati selezionati vari fumettisti, no? Quindi sarà possibile comprare un fumetto a cui verrà poi accompagnato anche l'album, per chi vuole. Come nasce questa idea? In realtà è stato tutto è venuto tutto naturalmente abbastanza insieme. Stavamo lavorando all'EP, poi per una serie di coincidenze ho iniziato a parlare di questa idea di fare delle storie su che partissero dalle mie canzoni con Coconino, la casa editrice che pubblica questo libro. Sì. E a un certo punto abbiamo pensato di unire tutte quante le cose. All'inizio eravamo un poco, cioè io ero un po' perplesso, perché in realtà è una bellissima idea, dall'inizio mi sembrava molto bella, ma mi sembrava anche molto complicato mettere tutte quante queste cose insieme, anche dal punto di vista proprio produttivo e logistico. Però ci siamo riusciti, sono molto contento. Bene, bene. E tra l'altro ci piacerebbe chiederti, a proposito della tua dimensione live, no? Che tipo di rapporto sei riuscito ad instaurare in questi anni con il tuo pubblico e insomma come ti stai preparando alle prossime date? Ma il live per me è uno dei momenti più belli del mio lavoro. E non saprei dirti, cioè, il rapporto con il pubblico per me è una cosa molto intima, nel senso che nel momento in cui io vado a suonare mi espongo molto, ma allo stesso tempo, nonostante poi le cose intime in generale mi facciano anche un po' paura, il live invece è veramente un'esigenza che sento. Ho capito. Invece, scusami Gio se ti interrompo, perché volevo chiederti ancora, dopo la domanda del fumetto, ma appunto dicevi, immagino che questa sia la prima volta che hai unito due dimensioni artistiche differenti, correggimi se sbaglio, questa volta è stato un fumetto. Se non fosse stato un fumetto o comunque delle raffigurazioni di vario tipo, cosa avresti combinato al tuo EP? Bah, sarebbe stato molto bello, e in realtà la musica con parole, in effetti si può combinare con tante cose, ma difficilmente con cose che abbiano parole, quindi forse quello che mi avrebbe affascinato sarebbe stato unirla con delle immagini cinematografiche, sicuramente questo è una cosa che sarebbe bello far accadere. Ottimo, ottimo. Quindi chissà, magari sarà la prossima sorpresa dei prossimi mesi, chissà. Magari. E, tra l'altro, tornando al singolo che è uscito da pochissimo, volevo sapere, tu parli molto di solitudine, ok? E volevo sapere in questo momento per te che cosa significa appunto la parola solitudine quando hai davanti un tour, stai facendo uscire un nuovo progetto, insomma come ti rapporti a questa cosa insieme alla musica? Ma la solitudine in realtà per fortuna l'ho sempre intesa come una cosa positiva, nel senso come una cosa della quale anche mi nutro, per chi fa questo lavoro la solitudine è anche necessaria per creare, per trovare dei momenti per lavorare, quindi la vedo sempre in modo positivo. Anche in questa canzone in realtà la solitudine la intendo come, appunto, proprio dandole un valore, la intendo come dono che due persone possono farsi reciprocamente. Di più come spazio. Esatto, no? Come spazio che da personale diventa condiviso, che è una cosa che appunto per me almeno non è semplice fare. È un po' come quando si dice che è prezioso trovare qualcuno con cui stare in silenzio, no? Sì, certo, certamente. E quindi in questo momento in realtà non ho molta solitudine, ma non me ne lamento, tutt'altro, perché appunto in questo momento sicuramente tra la mia vita personale e la mia vita lavorativa sono molto in buonissima compagnia, molto spesso. Bene, bene. E invece torniamo alle tue collaborazioni. Sono veramente state selezionate figure, cioè insomma artisti che noi amiamo, cioè veramente la rappresentante di Lista, Niccolò Fabi, Calcutta, insomma. Come nasce l'idea di mettere così tante collaborazioni comunque in un EP? Beh, eravamo a ridosso di un disco mio uscito relativamente da poco, quindi esatto. E il pretesto è stato anche che da questo disco sono rimaste fuori un paio di canzoni che avevo molta voglia di fare uscire velocemente e prima di un prossimo disco, che non sono ancora uscite. Una è la canzone che canterò con Dario Brunori, certo. E un'altra è una canzone che canto da solo, e quindi ragionando su un bel modo per far uscire queste canzoni, ho pensato alla possibilità di invitare degli artisti che mi piacciono un sacco far rivivere delle altre canzoni del disco. Beh, senz'altro una buona intuizione per il modo in cui vediamo, insomma, stanno andando le cose. E a proposito di artisti che ti piacciono, quali sono i tuoi ultimi ascolti? Allora, recentemente ho sentito Kate Tempest, mm-hmm. Poi ho ascoltato l'ultimo disco di Bon Iver, okay. Non so mai come si lo pronuncia bene. Nemmeno io, facciamo finta che l'abbiamo pronunciato. Bon Iver a noi va benissimo, così come si scrive. Ovviamente il disco di Brunori e il disco di Fabi sono due dischi che sono usciti abbastanza recentemente, che mm-hmm. sto ascoltando tanto in questi mesi. Il disco di Kanye West, Beh, è un disco che proprio vario, ho ascoltato un sacco, e il disco di Da Supreme anche mi è piaciuto. Devo dire che stiamo riscontrando veramente essere piaciuto a tantissime persone che fanno musica completamente diversa. È vero. Sì. Confermo. Non sono sorpreso, è un disco davvero molto interessante. Sì. E in che modo? E allo stesso tempo molto divertente. È vero, assolutamente sì, ha un approccio molto fresco alla scrittura e poi ha un modo di parlare tutto suo, quindi è riuscito, se non altro, a fare una cosa molto unica nel suo genere. Io volevo sapere anche come questi ascolti o questi artisti con cui tu stai collaborando riescono a influire sul tuo lavoro. Se avete fatto delle sessioni, se sono durate molto, o anche semplicemente se ci sono determinati periodi di tempo che ti ispirano di più. Ma è molto molto vario l'argomento che ti rimballo, nel senso che ci sono stati artisti nel tempo che mi hanno proprio influenzato tantissimo, soprattutto a ridosso della lavorazione di un disco, quando entro nel vivo della lavorazione di un disco, di solito tendo a mettermi dei punti di riferimento importanti che mi indichino la via da seguire nel lavoro e nell'allestimento del mondo che creo intorno alle canzoni, quindi per quanto riguarda gli arrangiamenti, ma anche proprio la scelta di come voglio portare a termine le canzoni che magari sono nate per i fatti loro. Uh-huh. E per quanto riguarda questo disco qui, questo EP, con queste collaborazioni, in realtà non è stato uguale il lavoro che ho fatto con ognuna delle persone che è intervenuta. Con alcuni ci siamo confrontati di più, con altri magari un pochino di meno, alcuni sono stati in studio con me, con altri invece ci siamo scambiati i file confrontandoci telefonicamente. Sono quattro storie un pochino diverse l'una dall'altra. Poi in realtà sono canzoni che ho scritto io e che ho arrangiato io insieme a Giovanni Pallotti, il produttore del disco, quindi anche il loro intervento c'è stato, ma non li ho fatti lavorare proprio tantissimo, anche perché alcuni di loro, per esempio sempre Brunori e Fabi, erano belli presi dalle loro cose. Dalle loro cose abbastanza imminenti. Assolutamente sì. Giovanni, guarda, io vorrei prima di concludere chiederti una cosa. Quali sono le tre cose a cui Giovanni Truppi non può rinunciare e non vuole rinunciare? Wow, così Marzulliano. Sì, abbastanza. però lo dicevo in senso positivo. No. Ma credo la vorrei non rinunciare alla a fare lo sforzo di rimanere attento alle innanzitutto alle persone che sono importanti per me. Molto spesso la nostra vita, il nostro lavoro ci portano ad essere molto molto su noi stessi e vedo che tra l'altro lavorando man mano che il lavoro diventa più importante, questa è il lavoro o la tua famiglia, la tua vita privata diventano crescono, che è una cosa bella, è più difficile rimanere connessi agli altri. Mm-hmm. Questo forse è una cosa che vorrei. E un'altra cosa che credo sia molto importante per me è rimanere il più possibile libero nelle cose che faccio dal punto di vista artistico. Ottimo, assolutamente. E ne manca poi, una la buona salute. Ok, non fa mai male quella. Beh, visto che l'ultima era forfettaria, ci possiamo lasciare con un brano che ci consigli da mandare in onda. Io sono l'altro. Ah, ok. Bene. Vai, andata. Dopo la tua intervista, allora la mandiamo in onda. Ti ringraziamo. Grazie e mille. Quindi ci vediamo alla data milanese. Assolutamente. Vi aspettiamo. Ciao. Grazie, ciao, Giovanni. Ciao. Lui era Giovanni, che ringraziamo ancora. E come appunto dicevamo qualche minuto fa, sarà qua a Milano il 23, quindi ai magazzini. E noi sicuramente ci saremo. Ci saremo, ci saremo. L'hai messo un po' in difficoltà. Perché vuoi essere marzulliana già dalla prima puntata? Ma come? No, guarda, sarà una domanda che riproporrò in questo 2020. No, ti prego, no, perché ogni volta noto quei 2 o 3 secondi di stacco e di silenzio in cui l'artista tipo... No, ma okay. ci sta. Sono curiosa. E io devo sempre dire, marzulliana, invece no, è solo guarda, pazza. In realtà, secondo me, sono convinta che loro preferiscano queste domande... Sì, no, quattro, dai, ci sta, certo. Ottimo, ma un'altra novità, chiudiamo questa puntata parlando di un altro palinsesto oltre del nostro, parliamo in realtà della line-up Primavera Sound di Barcellona, non vediamo l'ora, quest'anno lo diciamo ogni anno, ma quest'anno ci andiamo. Quest'anno spero... Ovviamente che riusciremo a metterci su quel beato aereo. Insomma, beato speriamo di no, però insomma sì, sicuramente dobbiamo trovare le forze e il modo di arrivare a Barcellona quest'anno. Esatto, ma andiamoci a spizzicare la lineup adesso live. Vediamo. Iniziamo allora con giovedì, intanto dal 3 al 7 di giugno. Dal 3, però in realtà vedi la lineup è dal 4. Il 3 tipo, non so, ci saranno delle anteprime, le spiagge, le cose, Barceloneta, riferimenti a ovviamente al pezzo di Coez, Carlo e Franco che ci è rimasto nel cuore dai tempi. Tralasciamo, vabbè, tra Massive Attack, cioè sono tipo giganti, Lana Del Rey, Brockhampton, The National, mamma mia, The Strokes, Caribou, adoro. Tyler, The Creator, Bad Bunny, insomma ragazzi, King Cruel, cioè come si fa? Floating Points, come si fa a non Disclosure, andare? Cioè secondo me quest'anno è una cosa veramente molto carica, quindi spero che sarà la nostra prima volta e abbiamo scelto l'anno giusto, Giorgio, per assolutamente andare. Sì. Detto ciò, fateci sapere qual è l'artista che non volete perdere al Primavera Sound. Ma soprattutto... Dopo questa prima puntata non ci abbandonate, continuate a seguirci perché appunto l'abbiamo detto, abbiamo appena cominciato, quindi abbiamo tantissime cose da dirvi, restate connessi sui nostri social, la nostra email per qualunque tipo di collaborazione è classefutura@gmail.com. Sveliamo l'ultima novità di questo nuovo palinsesto, è che siamo di martedì in onda, quindi non più il mercoledì ma martedì. Ci sentiamo quindi martedì prossimo ore 16:30 sempre qui su Radio Città Fujiko 103.1 FM. Baci!